mind trip, shooting straight, straight from the hip. System to its knees. E siamo così arrivati a questo fine ottobre, siamo poco prima della notte di Halloween. Questa sera ci saranno un po' di cose in giro, quindi parleremo anche di queste o qui durante questa trasmissione. Intanto stiamo ascoltando qualcosa per... Stiamo ascoltando qualcosa intanto per introdurre la puntata di questa sera. Ascoltiamo sempre qualcosa preso da Giamendo, un qualcosa molto soffice rispetto a quello con cui ci siamo lasciati l'ultima settimana. E parliamo dei Triad, un gruppo che spazia fra l'electro, l'ambient e l'EDM. E mentre andiamo ad ascoltare la prossima traccia di quest'album che si chiama Strutting, e vi ricordo che state ascoltando sempre Radio Pirata 38 e questa è Pump Up The Volume. Intanto per cominciare questa sera vi preannunciamo che c'è una serata in un posto di nostri fratelli e sorelle che è ZK, una serata di un'etichetta indipendente di cui abbiamo già parlato nei sabati precedenti, e l'etichetta di cui stiamo parlando si chiama Stato Elettrico. I can see to see. La serata di questa sera fa parte di una serie di serate che da un paio di mesi stanno andando avanti, organizzate e promosse sempre da Stato Elettrico, in particolare nello spazio di ZK, per supportare il movimento della musica elettronica underground. Le serate in particolare si chiamano Scanner Night e saranno ancora con noi anche nei prossimi mesi. E questa sera, durante questo appuntamento, suoneranno più o meno in sequenza Algorithmics, che fanno un live set techno, e Labarom, che fanno invece un live set EDM, il nostro caro amico Valerio M, che farà un DJ set Psy Techno, e un altro nostro amico Mr. 3P, e infine Silvia Trix. E la traccia che abbiamo appena ascoltato si chiamava Brit, andiamo a ascoltarne ancora un altro paio, la prossima che sta per andare si chiama invece Alone. Thank you. E nonostante la musica, vi ricordo che state sempre ascoltando Radio Pirata 38 e che questa è Pump Up the Volume. Non so, la scelta è stata un po' infelice per questo inizio. Così, tanto per avere un attimo il tempo per trovare qualche altra traccia, passiamo invece a un'altra traccia di cui non diciamo niente perché magari è già un po' famosa di suo. out the night. Take your soul to the grave. Taking drugs until late. We're not searching fucking fame. We are freaks of the night. Try to enter with a pay. Hidden in the house of pain. Playing hard with your brain. We are freaks of the night. Take your soul to the grave. Taking drugs until late. We're not searching fucking fame. We are freaks of the night. Try to enter with a pay. Hidden in the house of pain. Playing hard with your brain. We are freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Freaks of the night. Quello che stiamo ascoltando invece è una delle ultime tracce di Valerio Maina, uno degli autori che suoneranno questa sera a Zec, un nostro amico e fratello, e il pezzo si chiama, come potete intuire dal ritornello, Freaks of the Night, ed è un featuring con Shadow Beach. Proveremo a fare un tentativo per connetterci allo streaming della serata di questa sera. Speriamo che facciano partire il tutto in fretta, visto che poi li raggiungeremo e quindi non saremo più in grado di mandare lo streaming a nostra volta. We'll be right back. scusate per queste interferenze, ma stavamo provando a connetterci allo streaming di cui parlavamo prima. Nel frattempo stiamo ascoltando un autore messicano che abbiamo trovato sempre su Jamendo tanto tempo fa e che, di cui ci siamo appassionati non troppo per la qualità della sua musica, ma per la sua produttività. È uno degli autori più fertili su Jamendo, su cui ha pubblicato una decina di album negli ultimi 2 anni. E andremo ad ascoltare ancora qualche altra traccia. Vi ricordo, il nome dell'autore è Bate, la traccia che abbiamo appena ascoltato si chiamava Seis Sagadoras Verdes, ed ora andiamo ad ascoltare Marimba. Piano piano stiamo scivolando nell'ultima mezz'ora, aumenteremo di un bel pochino i toni per accompagnarci verso l'ultima mezz'ora e poi quindi ad uscire di casa. Perché ricordiamo, questa sera pare che sia anche Halloween, non a caso ci saranno diverse cose in giro, fra cui forse anche una festa. Thank you. been a slave, but now I'm free to tell the world my real feelings. Radium's music really sucks. It's really the world's biggest hit, and he forces me to make all this crap for him. Today I am free to make my own music. So ladies and gentlemen, here is my very personal remix of Radium's Playmobil. Here we go. BL. Playmobil. Playmobil. System and becomes a part of you that stays with you to make your day playful and fun throughout the rest of the day. You wake up on the count of three feeling fantastic in every way, feeling simple, feeling of energy all through your mind, body, and spirit. 1, 2, 3, wide awake. no, non ve sei rotto il computer, è sempre Pump Up the Valium. Più tardi invece vi daremo le informazioni per i contatti e l'infoline per la festa di questa sera con Chronic ed altri. Ci saranno quindi appunto i Chronic, i Nameless, i Poison e i 56K. Quindi da questa sera, domani e dopodomani, Halloween party. E fra un altro paio di tracce vi daremo i contatti. Siamo a una traccia di distanza dal numero dell'infoline per questa sera, festa di Halloween. Chronic Nameless Poison 56K. E stiamo quindi per darvi i numeri, non quelli del Enalotto, bensì quelli per raggiungere l'infoline di questa sera. Iniziamo quindi a darvi il numero per l'infoline per la festa di questa sera di Halloween. Il numero quindi è 333-6588-949. Ripeto, 333-6588-949. Siamo vicini alla chiusura, le ultime paio di tracce e poi ci saluteremo. (Susurra) mentre vi stiamo per mandare l'ultima traccia, vi ricordiamo di passare sul nostro sito che per ora è radiopirata38.noblogs.org, oppure di mandarci una mail all'indirizzo radiopirata38@inventati.org, e in più vi proponiamo un piccolo quiz. Chi si ricorda il titolo di questa traccia che stiamo per mandare, così per salutarci, ci contatti sul blog per farci sapere se si ricorda davvero il titolo e come se lo ricorda, se si ricorda il nome che si diceva fra amici in comitiva o il nome vero, perché pure quello conta. E il primo vince un viaggio al prossimo evento di Radio Virata 38. yourself.